l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 8 minuti dopo le 12. Siamo qua come ogni settimana per raccontarvi l'Europa dal nostro punto di vista, l'Europa delle storie, delle possibilità e delle opportunità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu, il portale per conoscere tutte le attività del network, in particolare i dossier, le inchieste, i reportage che vengono realizzati in tante lingue diverse. Radio24.it invece è il nostro sito da dove poter riascoltare poi il podcast e trovare tutti i contributi extra. Ancora i social network, chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale, Twitter e Facebook, bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Come ogni settimana, tanti ospiti, tante storie, tanti appunti, tante buone pratiche da mettere in circolo perché possono diventare stimolo per attività simili da replicare poi nel nostro paese e non solo. Si parte dai giovani. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so dai giovani si parte dal talento, non tanto quanto condizione privilegiata, ma quanto condizione di partenza che può trovare poi in Europa un palco in cui far germogliare questo talento. Questo è stato un po' il cuore della Due Giorni organizzata dall'Agenzia Nazionale per i Giovani Young Europe EU, il talento nella dimensione europea, una Due Giorni che si è tenuta a Roma, tanti incontri, tante testimonianze, tanti appunti da prendere e, ripeto ancora, mettere in circolo. Ne parliamo con Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao Fede, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Più giovani, più talento, più Europa. Qual è stata un po' la caratteristica di questa Due Giorni romana? Ma un terzo, anche perché le tre cose si tengono, o se stanno insieme, funzionano se stanno insieme e si tengono. La dimensione europea è il luogo dove si amplifica il talento ai più giovani, dove si può amplificare il talento ai più giovani. L'uno senza l'altra rischia di essere un tavolino senza una gamba. Certo, il programma Erasmus Plus come grande collante di queste tre dimensioni, avete fatto un po' il punto delle cose fatte, ma soprattutto è un po' un trampolino per le cose da fare. Quali sono un po' le prospettive, quali sono secondo te le richieste anche o le criticità che sono uscite da questa Due Giorni? Sì, come sempre abbiamo fatto un punto. Ormai è il terzo anno che facciamo questo appuntamento e ci aiuta a fare una sintesi di quello che è accaduto durante l'anno. Fino a ottobre è l'occasione buona per farlo e anche quest'anno il risultato positivo sia sull'aspetto dei fondi, il 100% impegnato, sia sull'attività. Abbiamo avviato la strategia di inclusione per le giovani generazioni di aree svantaggiate, abbiamo avviato rapporti più intensi con le altre agenzie, abbiamo vinto una call sulle politiche per giovani migranti e rifugiati, tante cose, insomma, si trova tutto sul sito. E poi abbiamo buttato un po' lo sguardo in avanti al prossimo anno, ai nuovi appuntamenti e alle nuove scadenze. Si comincerà a febbraio, c'è la nuova scadenza appunto di Erasmus Plus, la prima call di Erasmus Plus, e poi cito soltanto tre appuntamenti: il 30 anni di Erasmus, la Commissione ci ha chiesto di realizzare Erasmus e Erasmus Plus, i 60 anni dei trattati di Roma e i 10 anni dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Insomma, quindi tanti appuntamenti, tanti compleanni importanti che andranno. A fine anno facciamo l'altro compleanno, i 20 anni dello SVE, Servizio Volontario Europeo, inizio dicembre abbiamo l'evento annuale. Perfetto. Giacomo, tante testimonianze, dicevo prima, Martina Caironi, Monica Contraffato, Daniele Lupo, grandi campioni, protagonisti a Rio, alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Come mai questo abbraccio fortissimo con il mondo dello sport? Ma sì, è una scelta che abbiamo fatto già da tempo, di mettere insieme in questa occasione realtà e mondi diversi, allo sport, alla cultura, all'imprenditoria, alle istituzioni, per fare in modo che i ragazzi che partecipano, anche quest'anno tantissime adesioni, possano avere più stimoli, più punti di contatto, più idee da tirar fuori. Con lo sport in particolare, perché le parole sacrificio, costanza, allenamento, impegno, sono le parole che vanno bene nello sport, come nello studio, come nella vita, e quindi vanno bene anche per i giovani, quindi il loro esempio, come esempio per le nuove generazioni. Quest'anno in particolare la partnership, il Comitato Paralimpico, con la portabandiera Cheironi e Moni Contraffatto, grandissimo orgoglio, grandissima orgoglio dell'agenzia avere loro come ospiti insieme a Pancalli e a Daniele Lupo, perché è un esempio in più anche di tipo valoriale e personale. Ricordiamo agenziagiovani.it, il sito per tutte le informazioni. Grazie a Giacomo D'Arrigo, il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, per aver fatto il punto di questi 2 giorni e non solo. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime tappe del viaggio che stiamo comunque facendo insieme. Ciao Giacomo e buon lavoro. Ciao Federico, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Hashtag Refugee Cameras. Gli scatti dei profughi raccontano il viaggio verso l'Europa. Nel dicembre 2015 il fotografo tedesco Kevin McElvany consegna 15 macchine fotografiche usa e getta a rifugiati incontrati a Izmir, Lesbo, Atene e Idomeni e altrettante buste a Francate con sopra il suo indirizzo. Si tratta di un modo per partecipare al pericoloso viaggio di chi sogna l'Europa, fornendo ai protagonisti stessi gli strumenti per documentarlo. Un anno dopo, 7 di queste macchine fotografiche tornano al mittente e dal racconto per immagini dei rifugiati nasce la mostra Hashtag Refugee Cameras, che oggi comprende anche i lavori di celebri fotografi professionisti che sostengono il progetto. La mostra sarà visibile tutti i giorni fino al 25 ottobre presso lo spazio Living Lab della Galleria d'Arte Moderna di Palermo. Tutte le informazioni sul sito gampalermo.it. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta l'altra Europa. Li hanno soprannominate le sentinelle dei bilanci, sono i membri, 5 membri del neonato Fiscal Board, istituito dalla Commissione europea per verificare se l'esecuzione dei bilanci nazionali è coerente con gli obiettivi economici. E tra i 5 c'è anche un italiano, Massimo Borrignon, attualmente professore e direttore del Dipartimento di Economia e Finanza della Cattolica di Milano, che abbiamo il piacere di avere qua con noi per capire meglio gli obiettivi e il funzionamento di questo board. Buongiorno Bordignon, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei. Allora, un nuovo comitato appena istituito, se ho capito bene, insomma, non avete ancora fatto neppure la prima riunione, vero? No, il comitato doveva essere costituito i primi di settembre, poi c'è stato qualche ritardo e presente ha preso. È stato nominato ufficialmente il 19 di ottobre e cominceremo a vederci da partire dalla prossima settimana. Beh, già al sottotitolo Sentinelle dei bilanci, insomma, vi aspetto un gravoso lavoro, temo. Sì, è un po' più complicato di così, non è che dobbiamo fare soltanto quello, cioè, anzi il lavoro se da questo punto di vista è più interessante e anche un pochino più complicato. Questo European Fiscal Board sostanzialmente è una delle istituzioni che era stato proposto dal rapporto dei 5 presidenti per fare passi avanti alla unione monetaria, all'unione monetaria. Ci sono evidentemente delle carenze da un punto di vista istituzionale, ci sono ovviamente alcune cose devono essere riempite da diversi punti di vista, una per esempio l'unione bancaria o la cosiddetta unione dei mercato dei capitali, e un altro pezzo per quanto riguarda la politica fiscale è invece il ruolo assegnato a questo European Fiscal Board. E quello che deve fare è, intanto è un organismo indipendente per cui non risponde, siamo stati selezionati attraverso una procedura che è durata tra l'altro anche un certo numero di mesi, anche da qui i ritardi, ma che è totalmente indipendente dai paesi, dal Parlamento Europeo e dalla stessa Commissione. Non ha in realtà poteri esecutivi, quindi non è che noi possiamo andare a dire alla Commissione fai questo, fai quell'altro, però possiamo avanzare una serie di punti. Ho capito. E in prospettiva qual è il potenziale reale, secondo lei, di questo organo? Beh, secondo me è potenzialmente utile, perché deve poter fare sostanzialmente, l'idea di fondo è di spingere verso un maggior coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo. Quindi fa due cose: da una parte controlla l'applicazione delle regole fiscali, ma visto che le controlla potrà anche dire quali sono quelle che sembrano funzionare e non funzionare, e fare suggerimenti per un miglioramento, perché è del tutto evidente che le regole fiscali a livello europeo sono per molti aspetti estremamente complicati, poco comprensibili, probabilmente in qualche parte dovrebbero anche riviste. La seconda, c'è anche questo compito di definire quella che è la politica fiscale appropriata per l'area dell'euro, quindi può anche dire, indipendentemente dal fatto che queste regole siano applicate o no, anche se sono applicate, la politica fiscale complessiva, quindi la spesa pubblica complessiva per i paesi dell'area aerea è ottimale, è di un livello sufficiente, insufficiente, cosa si potrebbe fare? E quindi tramite questo meccanismo di consiglio alla Commissione, ma poi in generale all'Eurogruppo, ai paesi, la speranza è che spinga verso un coordinamento della politica fiscale maggiore rispetto a quello che abbiamo adesso. Certo, infatti mi chiedo questo, in parte a risposta, sarà un organo consultivo direzione Commissione ma anche direzione singoli paesi? Sì, cioè da un punto di vista puramente istituzionale è un organo di consulenza della Commissione. La Commissione può richiedere, cioè ha da fare questi compiti istituzionali e quindi produrrà un rapporto annuale su tutti i suoi consigli e suggerimenti dati alla Commissione, ma naturalmente la Commissione si può far carico di richieste che vengono avanzate anche dai singoli paesi in merito alla specificazione e chiarificazione di regole, quindi ci può assegnare dei compiti. E poi il presidente di questo fiscal board, in rappresentanza degli altri membri, può partecipare a riunioni dell'Eurogruppo, riunioni della Commissione, parlare direttamente con il presidente del Parlamento Europeo. Quindi dovrebbe avere un ruolo che non è limitato esclusivamente a un rapporto diretto soltanto con la Commissione. Buon lavoro, Bordignon. Complimenti per bisogno. La nomina. Sia in quantità che in qualità. Grazie a lei, salve. Buon sabato. Europost-it. Festival della diplomazia. Siete interessati alla politica internazionale e alle interazioni tra governi e istituzioni di paesi diversi? A Roma è in corso il Festival della diplomazia, che fino al 28 ottobre proporrà un ricco programma in cui ambasciatori, rappresentanti istituzionali e personalità del mondo accademico si confronteranno nel corso di 50 eventi fra tavole rotonde, dibattiti e convegni. Il titolo dell'edizione di quest'anno è La stagione delle incertezze, alla ricerca di nuove politiche per la convivenza e l'integrazione. E i temi affrontati saranno integrazione, cultura e identità, sicurezza, stati e governance, crescita sostenibile e migrazioni. Partecipano al festival oltre 70 ambasciate, 7 università e molti prestigiosi partner scientifici. Per consultare il programma, visitate il sito festivaldelladiplomazia.eu. Un veliero d'inizio Novecento, chiamato Hoppet, un progetto artistico e sociale itinerante dal Baltico al Mediterraneo. Tre anni di viaggio su questa imbarcazione, hanno vissuto attori, hanno vissuto registi, hanno vissuto operatori culturali, oltre 100 repliche di uno spettacolo che nasceva nei porti, nasceva negli approdi, proprio per raccontare un percorso comune di questa Europa contemporanea. Oltre 400 partecipanti ai workshop, oltre 20.000 spettatori, 400.000 persone coinvolte, un progetto che si è concluso, un progetto di cui è stato fatto il punto mercoledì qui a Milano, perché appunto tra i 14 partner europei anche l'Italia ha fatto la sua parte. Tutto questo è stato Meeting The Odyssey, ne parliamo con Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano. Buongiorno Del Corno, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Quale altra Europa ha raccontato Hoppet in questo suo lungo viaggiare? Ma ha raccontato l'Europa innanzitutto, che prova a misurarsi con la propria identità molteplice, cioè capisce che la forza dell'Europa sta proprio nel fatto di essere un mosaico di differenti culture, differenti linguaggi, differenti anche matrici antropologiche dal punto di vista del riferimento squisitamente culturale. E racconta anche un'Europa che è fortemente connessa dal mare, elemento che forse noi abbiamo dimenticato come veicolo di comunicazione, di dialogo tra le genti, ma che adesso torna anche a una sua drammatica attualità, visto che sono proprio le rotte marine quelle che in questo momento interpretano i flussi migratori destinati a sconvolgere, a trasformare anche la stessa identità di Europa nei prossimi anni. Certo, tra l'altro, se non ero io, Hoppet l'ho intercettato lo scorso anno sui navigli, no? Durante Expo, dico sì, bene? Esattamente, uno dei punti culminanti del progetto triennale è stata proprio la città di Milano nel 2015 durante Expo, essendo Milano una città che ha tante vocazioni ma sicuramente non quella marina, l'unico specchio d'acqua che abbiamo potuto offrire all'approdo del veliero era la Darsena, tra l'altro recentemente restituita a funzione pubblica dopo il lavoro portato avanti dalla giunta Pisapia, e in quel caso è stata davvero un'esperienza molto emozionante poter fare in modo che la città entrasse in dialogo con questa esperienza culturale molto intensa, artistica e culturale molto intensa, che hanno portato i protagonisti dell'esperienza Meeting the Odyssey, che ricordo in ogni porto in cui scendevano poi costruivano la propria dimensione spettacolare, non soltanto attraverso la riproposizione, diciamo, di uno spettacolo già perfettamente costituito, ma entravano in relazione forte con le comunità. Certo. Dei vari porti, e questo credo che sia stato un aspetto anche caratterizzante di quel racconto di Europa molteplice di cui parlavo all'inizio della nostra conversazione. Del Corno, lei è assessore alla cultura al Comune di Milano, città a vocazione europea. Com'è giocarsi la parola cultura oggi a livello europeo? C'è voglia di cultura? C'è risposta dal palazzo? C'è risposta da Bruxelles quando si sollecita più cultura in Europa? Il palazzo risponde in maniera molto forte attraverso i progetti che si costruiscono quest'anno, in questo mandato, attraverso il bando Europa Creativa. Sì. Diciamo che il più delle volte però l'approccio richiede un forte protagonismo da parte delle fondazioni e delle istituzioni culturali più che degli enti locali, e io credo che questo sia un approccio sostanzialmente corretto. Quello che però manca, e manca definitivamente, a meno che non poniamo noi rimedio a questa mancanza, è la consapevolezza che la cultura è un straordinario vettore di sviluppo sociale e economico per una comunità, soprattutto quando si riesca a interpretare quell'accrescimento del patrimonio cognitivo che la cultura dà nei confronti della comunità stessa. E quindi tutti i progetti che noi in questo momento dobbiamo realizzare, secondo me, dovrebbero essere rivolti a diffondere il più possibile cultura, soprattutto in quelle parti di società che ne sono escluse per ragioni sociali, anagrafiche o addirittura economiche. E dall'altra parte generare nuova domanda di cultura, stimolare nuova domanda di cultura, nella consapevolezza che appunto la cultura è uno straordinario strumento poi di acquisizione di strumenti che appunto arricchiscono il patrimonio cognitivo di una comunità e rendono quella comunità molto più fertile per lo sviluppo della coesione sociale e anche per lo sviluppo economico vero e proprio. Questa consapevolezza ancora manca, sempre più si pensa, ahimè, alla cultura esclusivamente in termini o di conservazione del patrimonio, per carità, necessità fondamentale sancita anche dalle costituzioni di alcuni paesi europei, ma che in un certo senso non esaurisce il valore della cultura stessa, oppure in termini di ornamento esornativo, che in questo caso tradisce anche in un certo senso ogni funzione di politica culturale che veramente voglia pensare attraverso la cultura di progettare il futuro delle nostre comunità. Grazie a Filippo Del Corno, assessore alla cultura Comune di Milano. Meeting theodyssey.eu, il portale per conoscere l'intero progetto nei dettagli. Buon sabato Del Corno, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Noi ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Segni di infanzia. Attenzione, piccoli e grandi appassionati di teatro per bambini e ragazzi. Dal 26 ottobre al 2 novembre a Mantova torna Segni New Generations Festival, rassegna internazionale d'arte e teatro dedicata alle nuove generazioni. Con la partecipazione di artisti ed intellettuali da tutto il mondo, da Stefano Benni a Wu Ming, il programma prevede 34 spettacoli, oltre 300 eventi e tanti workshop, progetti di ricerca, laboratori e incontri. Tra le novità di quest'anno, gli spettacoli Siamo uomini o caporali sul tema dei conflitti umani e del nazionalismo, Cinema Paradiso, un meraviglioso viaggio a tema cinematografico, e Caniculi, storia di tre clown alle prese con gli ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze. Inoltre, venerdì 28 ottobre, in collaborazione con l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo e l'Agenzia Nazionale per i Giovani, si terrà il convegno In viaggio per l'Europa, uno spazio di confronto rivolto agli studenti e alle opportunità europee a loro dedicate. Per avere più informazioni e consultare il programma del festival, visitate il sito segnidinfanzia.org. L'altra Europa. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me there, but only. Ancora buon sabato da Federico Taddia, @FedericoTaddia, Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Adesso vi proponiamo un progetto assolutamente innovativo, un progetto che riguarda il restauro delle opere d'arte attraverso le nanotecnologie, un progetto che si chiama Nano Restart, finanziato dalla Commissione Europea e che vede ora il primo quadro restaurato. Si tratta di un Picasso, lo studio, detto anche conosciuto anche col nome dell'atelier. Ne parliamo con Piero Baglioni, che è coordinatore del progetto e professore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze. Chiedo scusa, buongiorno Baglioni. Buongiorno. Come insieme Babi e Firenze, chiedo scusa, è uscito un Bologna. Che è. No, non si preoccupi. Tra parentesi, se lei cerca in rete il mio nome mi mettono a Bologna, ma io lavoro a Firenze. Non so perché, è un refuso di internet, non ho la minima idea. Buongiorno. Buongiorno Baglioni. Allora, che cos'è Nano Restart? Siamo nel campo delle nanotecnologie, delle grandi opere d'arte, e con questo Picasso, lui proprio che criticava i computer, invece grazie ai computer probabilmente entra nell'eternità nella sua opera. Nano Restart è un progetto finanziato dalla Commissione Europea e la sezione della Commissione Europea che si occupa di nanotecnologie. E noi ci occupiamo di sviluppare materiali nuovi o metodologie di restauro diverse da quelle usate fino adesso, che sono molto più performanti, non sono inquinanti, sono rispettose dell'opera d'arte. e questo progetto è dedicato alla conservazione, diciamo, dell'arte moderna e contemporanea, che è la più difficile da restaurare. E, in realtà Picasso lo stiamo restaurando adesso, ma ne abbiamo già finito uno, sì, con, in collaborazione con Peggy Guggenheim di Venezia, che è Pollock, che era un quadro che si chiama Tu, fatto da Jackson Pollock. Sì. E il restauro d'arte moderna è particolarmente complesso perché tutte queste opere sono polimateri, che sono fatte di tanti materiali, e quindi quando uno va a intervenire non si trova mai a lavorare con lo stesso materiale, con la stessa composizione chimica, quindi diciamo ogni millimetro quadrato di opera d'arte è parte fatta in modo diverso quasi. Baglioni, ma che restauro, cioè sono opere che si stanno deteriorando, che hanno subito danni? Allora il caso di Picasso è un caso diverso da quello di Pollock. Pollock era sporco, questi sono quadri che per la loro costituzione chimica diciamo assorbono pulviscolo, assorbono dall'inquinamento atmosferico, comunque dal particolato che c'è nell'aria che anche respiriamo, questa va a finire sul quadro, si appiccica al quadro e poi è molto difficile toglierla con metodologie convenzionali. E Picasso, in aggiunta a questo problema, c'aveva anche un altro problema, che le tele, dopo un po' di anni, soprattutto quelle moderne, il supporto proprio del quadro, cioè la tela dove è stato fatto il quadro, si deteriora, si degrada. E quindi in genere i conservatori cosa fanno? Prendono un'altra tela, la incollano su quella originale, e quando fanno questa operazione, delle volte, come nel caso di Picasso, la colla, la cera che usano, a volte usano cera, a volte colle che possono essere più o meno diciamo moderne, penetra attraverso il dipinto, quindi diciamo uno trova residui di quello che dovrebbe stare dietro, ma piano piano penetra e lo ritrova sulla superficie del dipinto, ed alterano la lettura del dipinto, cambiano i colori, vengono chiazze chiare, scure, gialle. Mm-hmm. E quindi quello che noi facciamo lo riportiamo, diciamo, alle condizioni originali, a quelle di quando Picasso l'aveva fatto. Utilizzando queste nanotecnologie, quindi utilizzando l'avanguardia, sì, della ricerca utilizzando scientifica. Utilizzando queste nanotecnologie, grazie al finanziamento dell'Unione Europea, altrimenti sarebbe impossibile, diciamo, formulare questi sistemi, che sono molto complessi nella realizzazione da un punto di vista chimico e fisico, ma sono abbastanza semplici per il restauratore, cioè il restauratore si trova davanti un oggetto che è tecnologicamente molto avanzato, ma l'uso è semplice, è abbastanza facile da usare, diciamo. Certo. Baglioni, leggevo 12 paesi coinvolti, 27 enti tra industrie chimiche, musei, centri di ricerca in questo progetto nato nel giugno 2015, che si svilupperà fino a novembre 2018. Come viene l'intuizione? Perché la Commissione Europea decide di finanziare un progetto di questo genere? È più appunto conservazione del patrimonio, è più sviluppo di nuove tecnologie che poi potranno essere usate anche in altri ambiti? Qual è stata l'intuizione iniziale? Quello che ha fatto la Commissione è che questo è un qualcosa di, diciamo, atipico, perché unisce quelle che si chiamano SSH, Social Science and Humanity, le scienze sociali e la parte umanistica, con la parte tecnologica, tecnica, scientifica. In genere fino ad oggi come funzionava? Diciamo, funzionava che la parte umanistica era disconnessa o abbastanza distaccata dalla parte scientifica, mentre nel Rinascimento non era così, perché gli scienziati, se lei prende Leonardo da Vinci, era uno scienziato ma era anche un umanista, un pittore, un artista. Oggi i due mondi sono separati, e allora adesso c'è una specie di riunificazione tra la parte umanistica e la parte scientifica, e questo è il secondo progetto che la comunità finanzia per cercare di reintrodurre o di riunire due mondi che apparentemente sembrano staccati tra loro, ma che non lo sono affatto. E allora c'è in ogni dipinto c'è una parte artistica, che è quella realizzata dall'artista, ma c'è anche tutta una parte scientifica, che sono tutti materiali che l'artista ha usato. E quindi, diciamo, un artista non è in grado di mantenere o di prolungare la vita dei materiali o di mantenerli nelle condizioni di sicurezza. Se uno vuole trasferire alle generazioni future la parte artistica. Certo. E quindi diciamo, la commissione ha avuto questo intuito, che è particolarmente benvenuto soprattutto per gli italiani, che hanno un patrimonio culturale enorme, ma non solo per gli italiani. Assolutamente. E in questo progetto ci sono 26 enti, ci sono diversi musei, il Museo della Danimarca, degli Stati Uniti, c'è il Rice Museum, quindi... Sì, una rete di partnership internazionale, che insomma è un beneficio assolutamente collettivo. nanorestart.eu, questo è il sito per conoscere l'intero progetto. Un grazie a Piero Baglioni, coordinatore del progetto e professore del Dipartimento di Chimica Università di Firenze. Buon sabato. Grazie a voi, anche a lei. Arrivederci e grazie. Un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Scambio culturale in Bulgaria. Sei un amante dell'arte e pensi che la creatività possa essere una risposta alla violenza? L'associazione Active Youth for Europe, partner dello scambio culturale Art vs. Hate, è alla ricerca di 6 partecipanti europei per uno scambio culturale dall'8 al 16 novembre a Bansko, in Bulgaria, sul tema della street art come strumento per combattere l'odio. Obiettivi dell'incontro saranno aumentare la consapevolezza tra i giovani e aiutarli a capire meglio cosa sia l'odio e a quali conseguenze possa portare, informarli su come combattere efficacemente l'odio in modo non violento, presentare i graffiti come un modo efficace per combattere l'istigazione all'odio. Lo scambio sarà anche un modo per far conoscere ai ragazzi il No Hate Speech Movement. Vitto, alloggio e spese di viaggio saranno completamente coperti dall'associazione. Per informazioni, cerca Scambio Culturale in Bulgaria a tema Arte versus Odio sul portale scambieuropei.info. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta l'altra Europa. Sono delle donne che hanno trovato il modo di essere presenti nella loro comunità, nella loro famiglia. Quando una donna diventa Bornesh non veste più, non si veste addirittura più da donna. Una volta che lei si considera Bornesh vuol dire che comincia a vestirsi da uomo, con pantaloni, con il cappello, magari si permette di fumare. Cioè, le Bornesh sì, hanno fatto il gesto della libertà perché hanno voluto... Hanno visto come si muove un uomo, come vive un uomo, hanno voluto sempre quella vita, perché è normale volere quella vita lì, cioè tutte noi vogliamo essere libere, così hanno scelto quella di diventare uomo per essere libere. La scelta, la libertà, il desiderio di diventare uomo sono alcune delle frasi che abbiamo ascoltato in questo estratto di un cortometraggio che racconta di un progetto ben più ampio, progetto realizzato dalla fotografa Paola Favoino, a cui diamo il benvenuto. Ciao Paola. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Paola, chi sono le Bornesh? Ecco, le Bornesh sono delle donne che hanno fatto appunto la scelta di diventare uomini. E si parlava, sì, nel video si parla di libertà, di scelta, però diciamo che la parola d'ordine forse è necessità, nel senso che queste donne vivono comunque in un contesto che è necessario capire per comprendere poi la loro scelta, nel senso che comunque si parla di un contesto chiuso in cui vige questa legge che è il Canun, che... È è una legge medievale a cui ancora molti albanesi si affidano per decidere, per prendere decisioni in seno alla famiglia, in seno alla, alla società in cui vivono. Un contesto che è geograficamente collocato tra l'Albania settentrionale, il Kosovo e il Montenegro, contesto che tu conosci molto bene perché frequenti da anni nel portare avanti questo progetto che oggi in particolare è diventato una mostra, che è alla Galleria Raffaella De Chirico di Torino fino al 29 ottobre, queste vergini giurate, così sono chiamate, e questo è anche il titolo della mostra, se non sbaglio, dico bene? Sì. Ok. Sì, sì, la mostra è appunto è dedicata alle Burnesh, che è una parola che deriva dalla parola bur, che significa uomo, quindi Burnesh è la femminilizzazione, diciamo, della parola uomo, ed è qualcosa che io sento dire spesso quando vado in Albania. Le donne appunto si salutano dicendosi aie Burnesh, che significa come stai, uoma, maschia, te la senti, sei forte abbastanza. Quindi è una cosa che io ho imparato lì, altrimenti le avevo conosciute come vergini giurate. Ecco, Paola, studiando. Ma tu come le hai incontrate e come sei venuta a conoscenza di questa realtà? Io diciamo che mi occupo di Albania dal 2003, cioè quando ho iniziato a fare la mia tesi di laurea sull'immigrazione albanese, e ho incontrato parecchi albanesi perché era un momento molto difficile per loro. Ero spesso in piazza perché chiedevano i permessi di soggiorno, era un momento difficile, e quindi ne ho conosciuti tantissimi facendo la mia ricerca. E poi uno di loro mi ha invitato ad andare in Albania, e lì mi hanno raccontato questa storia in cui si parlava di questo zio, di questo Lal, che però era una donna, e quindi ecco, questa cosa mi ha fatto scattare un po' questa curiosità, e ho iniziato a leggere, a documentarmi, e in realtà ho trovato molto poco. Ho trovato degli studi di antropologia, però scritti da un'antropologa inglese, Antonia Young, e poi degli scritti di Edith Durham, di Berit Baker, però nulla, diciamo, scritto in italiano. E poi nel 2010 finalmente sono andata a fare il mio primo progetto fotografico, e ho deciso, insomma, che sarebbe stato questo il mio tema, e da allora, diciamo, non mi sono più fermata. Paola, ma questa scelta di diventare uomini, vestirsi da uomini, atteggiarsi da uomini, è una scelta arcaica, o ci sono anche ragazze coetanee che oggi appunto decidono di vivere da uomo? Ecco, io ne ho incontrata una proprio a maggio, di 34 anni. In realtà la stavo cercando da tempo, una giovane Burnesh, perché appunto uno pensa che sia un fenomeno che sta scomparendo. Sicuramente sono cambiate le motivazioni, ecco, forse rispetto al tempo in cui magari lo ha fatto un'altra Burnesh che io seguo da tempo, che è Jean, che adesso ha 90 anni. Sicuramente le motivazioni sono diverse, però ci sono ancora oggi, e secondo me ce ne sono anche più di quello che si pensa. Mm-hmm. E un progetto fotografico, un progetto appunto dove sei andata a raccontare questa realtà, che loro raccontano volentieri, c'è voglia di spiegare il perché di queste scelte? Diciamo che quando si arriva in Albania e si percorrono tanti chilometri lasciandosi dietro la città, e ci si immerge in una realtà che te la fa sembrare quasi normale, questa trasformazione, nel senso che comunque non so come dire, non c'è da chiedere molto quando si sta insieme a loro, nel senso che io all'inizio sono partita perché avevo in mente una leggenda, per me era una leggenda questa delle Burnesh. Poi le ho incontrate e ho scoperto che invece erano delle donne, e delle donne che si vestivano da uomini e che si atteggiavano da uomini. E però c'era qualcosa da scoprire, cioè non era finita qui, insomma, non è una maschera, non è solo una maschera, ma è anche una maschera. E quindi la cosa che mi ha spinto poi in questi anni a continuare il progetto è scoprire nuove storie, perché appunto ogni persona che ha fatto questa scelta, questa trasformazione, ha avuto delle motivazioni diverse, delle ripercussioni diverse sulla sua vita privata, su di lei, insomma. E quindi è un po' uno scavare in continuazione, un andare in profondità. Certo, ascolta, leggendo appunto è un racconto di una diversità socialmente accettata, più accettata sì. dalle altre donne o più accettata dagli uomini? È accettata da entrambi, nel senso che è accettata socialmente. In Albania la divisione di ruoli è talmente netta che quando una donna diventa Bornesh non viene più considerata donna dalle donne. Uh-huh. E quindi c'è un atteggiamento diverso da parte delle donne nei loro confronti. C'è appunto l'atteggiamento di una donna che si rivolge a un uomo. E il Kanun è pieno di regole di comportamento appunto nella relazione uomo-donna, per cui per dirne una, la donna non dovrebbe guardare negli occhi un uomo, la donna serve l'ospite e poi va via, è l'uomo che rimane ad intrattenersi con gli ospiti, che beve con loro, che li accompagna e che se ne prende cura, ecco. Quindi c'è una netta divisione di ruoli e una volta che una Bornesh diventa uomo non è più considerata, insomma, diversamente, mm-hmm. però accettata, perché diventa un uomo d'onore, anzi addirittura il suo sacrificio appunto la eleva, certo. a uomo d'onore. Grazie Paola, ricordiamo Paola favoinol.com, il sito per conoscere il progetto, sì. non solo questo, sì. anche tutti gli altri lavori di Paola, e fino al 29 sì. ottobre la mostra alla Galleria Raffaella grazie. Di Chirico di Torino. Buon sabato e grazie e complimenti. Grazie a voi. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa. Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Scatone invece in assistenza, e Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Vi ricordo questa sera invece alle 21.55 con Min Cavolo, le emozioni spiegate a mio figlio. Questa nuova rubrica in onda qui su Radio 24. Ancora grazie, ancora buon sabato. Da Federico Taddia, ciao! L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.